aperta questa opzione, della quale, intorno alla quale danno battaglia le associazioni dei consumatori già da molto tempo. Chiaramente con questa pronuncia della Consulta le associazioni dei consumatori hanno subito predisposto la modulistica da destinare ai consumatori e da utilizzare proprio per rivolgersi ai comuni o ai servizi di smaltimento dei rifiuti per poter chiedere l'IVA versata nei 10 anni appunto precedenti alla richiesta. E allora che cosa è successo in queste settimane? Che molti ascoltatori lo hanno fatto anche su nostra indicazione, ma poi hanno cominciato a segnalarci che le cose non andavano esattamente come avevamo noi indicato, cioè che il rimborso dell'IVA non era possibile perché le amministrazioni comunali e le società di smaltimento, facendo riferimento ad una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, dicevano che la sentenza della Corte non è sufficiente perché la Corte non è un organo competente ad istituire i tributi e quindi è necessario attendere il legislatore, e di conseguenza hanno respinto al mittente le richieste di rimborso. E allora adesso che cosa succede? Avvocato Francesco Luongo, segretario nazionale Movimento Difesa del Cittadino, ce lo spiegherà, speriamo, stamattina. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, anche la vostra è stata una delle associazioni appunto che hanno dato battaglia intorno a questo argomento e anche voi avevate messo a disposizione dei vostri utenti, dei consumatori, i vostri associati, ma in realtà il modulo era gratuito sul sito, appunto il modulo per fare la richiesta. Moduli che sono stati rinviati al mittente con questo presupposto. È corretto secondo lei quando il Comune dice la Corte non è un organo competente ad istituire i tributi, per cui non può pronunciarsi su questo, dobbiamo attendere il legislatore che dice l'IVA non va versata e va restituita? Guardi, anche se non è molto educato, io le rispondo balle. Mi vedo costretto a rispondere balle perché ci troviamo di fronte al nuovo muro di gomma, così come già sta accadendo in questi mesi, per la depurazione da restituire ai cittadini in mancanza del servizio. Per chi abbia un minimo di cultura giuridica, la Corte Costituzionale è l'organo giudiziario più alto del nostro ordinamento. Ciò che dice è di fatto legge, abroga le leggi la Corte Costituzionale. Quindi la Corte Costituzionale ha sancito un diritto fondamentale che non c'è altra autorità dello Stato che può disconoscere, ovvero sia che l'IVA fatta pagare sulla tassa rifiuti, questo vizietto tutto italiano dell'IVA sulla tassa, è illegittima e quindi va restituita ai cittadini. Ovviamente in questo paese dove si condona, dove si scuda, quando si tratta di restituire qualcosa del mal tolto ai cittadini, nonostante lo dica la Corte Costituzionale, c'è sempre qualche difficoltà. In realtà si cerca un po' di sfruttare l'ignoranza della gente, ci si rifà ad una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, tra l'altro precedente. Certo, che non può essere, immagino, sicuramente superiore come validità a quanto sentenzia la Consulta. Ecco. Anche quando questa è stata successiva, appunto, ecco, non infatti, ha nessun valore. Esatto, oltretutto questa è precedente, esatto, infatti. No, dicevo, oltretutto questa indicazione dell'Agenzia delle Entrate è anche precedente all'indicazione della Consulta. Oltre al fatto che non possono essere... Il 18 giugno del 2008, la sentenza della Corte è del luglio di quest'anno, quindi diciamo che non vincola. Ecco, è un tentativo posticcio di mettere nero su bianco un'argomentazione fumosa per cercare, lo ripeto, mi dispiace essere un po' volgare questa mattina, fregare ancora una volta i cittadini. Guardi, avvocato, noi però dobbiamo dare qualche indicazione pratica a chi ci ascolta, perché poi di fatto, a prescindere dai giudizi che si possono dare, ai comuni si sentono nel diritto di respingere al mittente le richieste di rimborso. Peraltro vi risulta che in questo frangente, in questo periodo, qualche comune o qualche servizio di smaltimento rifiuti le abbia accolte, ne abbia accolta qualcuna? Guardi, abbiamo notizie che nella provincia di Cremona alcuni comuni hanno previsto la restituzione di queste somme. Sono somme illegittimamente percepite, quindi vengo alla sua domanda: cosa fare? I cittadini possono stare tranquilli, devono semplicemente depositare le istanze in maniera tale da evitare che si formi la prescrizione. Le istanze danno diritto ai cittadini di ottenere il rimborso per i 10 anni precedenti alla applicazione dell'IVA sulla tassa rifiuti o sulla TIA nei comuni dove questa sulla tariffa di igiene ambientale dove era istituita. Quindi i cittadini depositano con serenità le istanze. Sarà compito delle associazioni dei consumatori premere, sollecitare, cioè sollecitare i comuni e ovviamente il governo affinché vengano attivati dei meccanismi di rimborso automatico. Se questa azione, tra virgolette, bonaria non dovesse andare a buon fine, è evidente che andremo ad avviare dei contenziosi davanti alle commissioni tributarie, le cui decisioni ovviamente non potranno non tener conto di una cosa chiamata Corte Costituzionale, e quindi in tal modo, una volta diciamo avviato il contenzioso, ottenere decisioni che vadano a vincolare i comuni coinvolti al pagamento, alla restituzione di questi benissimo, conti. Quindi, in questa fase depositare le istanze. Avvocato Longo, quindi siamo quasi in chiusura, perché ha già fatto la domanda, vale la domanda che è già stata inoltrata, secondo lei vale la pena ripetere l'operazione? Per chi non l'ha fatta invece può comunque scaricare questi moduli, lo abbiamo detto, tra l'altro devo dare una precisazione, noi nell'altra puntata avevamo detto che si poteva scaricare il modulo anche dal sito dell'associazione contribuenti.it, in realtà lì non è possibile scaricarlo gratuitamente perché l'associazione, facendo anche altre consulenze, chiede il versamento di una quota. Detto questo, invece su altri siti, per esempio su quello delle associazioni dei consumatori, il modulo si può scaricare. Le ribadisco, per chi l'ha già fatto deve ripetere l'operazione? Assolutamente no, ha incartato il suo diritto, ne ha formalizzato la richiesta, quindi deve soltanto attendere con fiducia o eventualmente, se ritiene opportuno, perché il singolo cittadino, il singolo contribuente è libero, può tranquillamente avviare, se lo ritiene opportuno, ripeto, un'azione davanti alla commissione tributaria provinciale competente. Chiaramente poi bisogna anche fare un calcolo di convenienza e stabilire quanto rimborso potrebbe ritornare indietro. Ci troviamo di fronte 350-400 euro a seconda, poi ovviamente era proporzionale a qualche famiglia magari questa cifra in questo frangente economicamente così delicato magari può anche far comodo. Avvocato Luongo, buon lavoro, la ringrazio, buona giornata e a presto, ci risentiremo, vedremo come va a finire questa faccenda, senz'altro, buona giornata. Alessandro, eccoci qua, allora Salva Danaio, l'oro vola e noi oggi ritorniamo a Salva Danaio con le domande degli ascoltatori ad esplorare tutte le opportunità di investimento nel metallo giallo, marenghi, sterline, monete, lingotti e quant'altro. Lodo Alfano, decisione giusta secondo voi, sì o no? È il sondaggio che facciamo oggi, dovete votare sul sito ilsole24ore.com. Sul sito della radio purtroppo ci sono dei problemi tecnici, molti ci hanno segnalato, è inaccessibile, è vero, ma c'è il sito del Sole 24 Ore, andate lì a votare come state già facendo in tanti. Oppure se volete intervenire chiamate all'800240024, ne parliamo tra poco con l'onorevole Gaetano Pecorella, avvocato di Berlusconi e il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano sono queste, tralasciamo la vicenda Lodo Alfano di cui parleremo tra pochissimo. C'è stato un attentato a Kabul questa mattina in Afghanistan. Nel mirino di un attentatore suicida all'ambasciata dell'India sono almeno 9 i morti, in prevalenza sono civili afghani. Nell'alluvione in provincia di Messina sono 9 i dispersi, mentre l'elenco dei morti è salito a 26. L'ultimo cadavere recuperato è quello di una bimba di 4 anni a Giampilieri Superiore. Sabato ci saranno i funerali e saranno esequie di Stato con giornata di lutto nazionale. L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, l'ex capo della Digos Spartaco Mortola, non istigarono l'ex questore di Genova a rendere falsa testimonianza al processo per l'irruzione nella scuola Diaz. Durante il G8, De Gennaro e Mortola sono stati così assolti per non aver commesso il fatto. Infine per lo sport, nella scherma altra medaglia d'oro ai campionati del mondo, questa volta a trionfare sono le donne nel fioretto femminile a squadra. In finale le azzurre hanno battuto la Russia. E allora alle 8:34 minuti siamo pronti a parlare di Lodo Alfano, siamo pronti a parlare del nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Vi chiediamo se la sentenza della Corte Costituzionale, secondo voi, è giusta, la Corte che ha bocciato, ha respinto Lodo Alfano, vale a dire la legge che sospende, o meglio dire sospendeva i procedimenti per le 4 più alte cariche dello Stato. Ripeto, votate sul sito ilsole24ore.com, siete già in molti che state votando, devo dire che per il momento il 77% dice la sentenza è giusta. Vogliamo parlarne con due persone che sicuramente hanno una visione opposta, l'onorevole avvocato Gaetano Pecorella, buongiorno. Buongiorno. Uno dei legali di Berlusconi alla Consulta. E saluto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno e benvenuto, Di Pietro. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e all'Avvocato Pecorella. Avvocato Pecorella, le chiedo, la Consulta è politicizzata, come ha detto il presidente Berlusconi? Ma la Consulta è espressione istituzionalmente di parti politiche, perché almeno 10 giudici sono 5 eletti dal Parlamento e quindi ovviamente dalle forze politiche, 5 designati dal Presidente della Repubblica, il quale a sua volta è espressione di certe maggioranze politiche. Quindi per questa parte non c'è dubbio che si deve ricondurre ad una matrice politica. Gli altri 5 sono magistrati e all'interno della magistratura sappiamo che vi sono degli precisi schieramenti politici, le cosiddette correnti, quindi più che dire se è politicizzata dico che è un organo politico. Mm. Le chiedo anche questo, lei il 17 settembre in un'intervista a Dino Martirano sul Corriere della Sera disse questo, io dico che, si profilava ovviamente lodo Alfano all'orizzonte, dico che il Presidente del Consiglio svolge una funzione che non può essere interrotta, o si difende nei processi o fa il Presidente del Consiglio. Stante la situazione attuale, cioè che i processi riprenderanno, che vuol dire insomma, che quindi deve fare anche l'imputato nei processi, che vuol dire che non può più fare il Presidente del Consiglio? No, soprattutto vuole dire che vi è un'interferenza tra situazioni di difesa personale, quindi la preparazione del processo, ma la stessa tensione che determina l'esistenza del processo penale, e dall'altra parte gli incombenti che sono collegati a una carica delicata. Beh, quindi avremo dei problemi per quanto riguarda la continuità dei processi quando vi saranno impegni politici che peraltro la Corte stessa in altre sentenze ha riconosciuto come un interesse prevalente, e avremo dei problemi probabilmente quando sarà necessario la sua presenza nel processo per quello che riguarda situazioni legate alla sua funzione. Però problemi che vuol dire, avvocato? Cioè non si presenterà alle udienze o si deve dimettere giusto per parlare, diciamo? No, guardi, il discorso sulle dimissioni non ha niente a che vedere ovviamente con il problema delle interferenze di una situazione con l'altra. Lo ha scritto la stessa Corte Costituzionale nel 2004 quando ha detto questa legge, cioè quella che era in vigore in quel momento, cosiddetto Lodo Schifani, ha un suo fondamento costituzionale o comunque ha un suo fondamento, un interesse generale che è quello del sereno svolgimento delle funzioni politiche della Presidenza del Consiglio e delle altre funzioni. Quindi dimissioni no, dimissioni no. Ma le dimissioni sono un fatto politico che si collega alla perdita di fiducia o dalla propria maggioranza o all'interno del Paese, non ha niente a che vedere, oppure quando si verificano, il che può ovviamente anche accadere, che una sentenza interdica l'esercizio di funzioni pubbliche. E chi ha chiesto le dimissioni a livello politico invece è l'Italia dei Valori. Antonio Di Pietro, buongiorno ancora. Perché l'Italia dei Valori, devo dire anche il PD non lo ha fatto oggi, Franceschini tra l'altro... è caduta la linea, adesso lo recuperiamo, Di Pietro. Franceschini ha detto dov'è la colpa, insomma ha criticato Di Pietro, ha detto continua a gridare le dimissioni ma sta sbagliando anche ora, fa una scelta giuridicamente sbagliata, politicamente suicida, se la prende con Napolitano. Ecco, Di Pietro, l'abbiamo recuperata. Perché lei ha detto sì alle dimissioni, Berlusconi se ne vada? È l'unico, credo, di forza politica che ha detto questo. L'ho detto e lo ripeto per ragioni tecniche, non in odio personale. E le ragioni, a mio avviso, le ha appena spiegate proprio l'onorevole Pecorella, quando con onestà intellettuale ha detto: a questo punto o si difende o fa il Presidente del Consiglio, e ha aggiunto, e peraltro più importante, come ha riconosciuto la stessa Corte, che quando fa il Presidente del Consiglio questo è un legittimo impedimento per andare a fare le cause per presentarsi in aula. Allora che cosa succederà da domani? Succederà quel che è normale che accada, cioè che tra un rinvio e l'altro si arriverà alla prescrizione, tra un rinvio e l'altro i processi non si faranno, tra un rinvio e l'altro non sapremo se il Presidente del Consiglio è colpevole o innocente. Egli, cioè dovrà ancora una volta rinviare sine die i processi e dovremo ancora una volta avere tutta questa attenzione nella collettività di non sapere se e che reato ha commesso il Presidente del Consiglio, e nello stesso tempo arriverà un'altra prescrizione per in tempo utile, e quindi non se ne farà nulla. Per questa ragione, proprio perché c'è necessità che è la giustizia funzioni, è un Presidente del Consiglio nel pieno delle sue possibilità e facoltà possa continuare a fare Presidente del Consiglio, noi chiediamo che si dimetta, che vada a fare quel che da 15 anni sfugge, cioè l'imputato, e che si ritorni alle elezioni, e chiediamo ai cittadini di verificare chi può andare a governare. Lei vuole il voto, sa che il suo miglior quello che l'appoggia oggi è Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Dice: Silvio, facci votare, poi chi le paga le elezioni? Chi... Ci sobbarchiamo. Ma guardi che se dovessimo accettare la regola che siccome le elezioni vengono pagate dai cittadini non si fanno le elezioni, torniamo al ventennio e non ne facciamo più di elezioni. Che ragionamento sono questi? È un non senso. Io sto parlando di una questione politica grossa come una casa. Abbiamo a che fare con un Presidente del Consiglio che prima con il lodo Schifani, poi con il lodo Alfano, ha tentato in tutti i modi di non farsi processare. La Corte Costituzionale per due volte gli ha detto: ti devi far processare. Credo che in un paese civile, normale, democratico, uno Stato di diritto, è giusto che anche il Presidente del Consiglio si faccia processare. E per questa ragione noi ne chiediamo le dimissioni e il ritorno alle urne. Peraltro, ripeto, quel che ci sorprende di più è la posizione del Partito Democratico, che gli dici governa tranquillamente, ben sapendo che in questo momento egli dovrà o occuparsi dei suoi processi o governare, come dice l'avvocato Pecorella, e che quindi non potrà fare né le cose serenamente né potrà riportare serenità nel nostro paese. È un atto di responsabilità che chiediamo non solo a lui ma a tutte le forze politiche, affinché finalmente si possa tornare ad una Presidenza del Consiglio che non abbia tutti questi problemi giudiziari e che soprattutto non sfugga più con il ricorso a leggi incostituzionali dal principio generale per cui la legge vale per tutti. Avvocato Pecorella, le chiedo, lei oggi ha fatto anche una dichiarazione alla stampa parlando di ora riforme radicali, che vuol dire? Le ha chiesto il giornalista: ma che fate, una vendetta per i magistrati? Cioè che vuol dire? Siccome non hanno passato la legge ora ci vogliono le riforme, perché? Perché i magistrati dettano l'agenda politica in Italia? Le chiedo. Intanto mi scusi, ma è necessario fare un paio di precisazioni su quello che ha detto l'onorevole Di Pietro. La prima è che i rinvii determinati da impedimenti non determinano il decorrere del tempo per quanto riguarda la prescrizione, quindi se vi è un rinvio per un impegno istituzionale del Presidente del Consiglio, il periodo in cui non si fa il processo non si conta, quindi questo non porta. Però diciamo un problema tecnico c'è, insomma, il processo non c'è nessun problema perché il processo viene rinviato e quindi non si arriva alla prescrizione proprio perché questo rinvio non incide sui tempi della prescrizione. Questo è importante che lo si sappia. La seconda ragione è che con questa legge non si sottraeva al giudizio dei giudici, ma semplicemente giudizio si spostava, si sospendeva al termine del suo incarico. Venendo alla questione magistrati. Per quanto riguarda le riforme, io credo che ci sia un fatto evidente, che la stessa sinistra deve prendere atto che incide sulla vita politica di questo paese, perché il governo Prodi è caduto per un'informazione di garanzia mandata al Ministro della Giustizia, cioè vi è una situazione dove non vi sono pesi e contrappesi, mentre la magistratura credo che, a parte le polemiche, gli attacchi, le critiche, ma sul piano istituzionale è del tutto indipendente, cioè non vi è una possibilità di interferenza del potere politico, la situazione della politica in Italia a partire dal 1993 in poi è stata in qualche modo spesso condizionata e determinata dall'intervento Ha capito Di Pietro, ex magistrato, siete politicizzati, insomma, questa è la questione, e quindi inevitabilmente si detta l'agenda politica da parte della magistratura. È una tesi questa avanzata dall'onorevole Pecorella, che è da anni che lo avanza, e io voglio rispettare la sua tesi, ma chiedo rispetto per la tesi contraria, che è quella la mia, e cioè che i magistrati non sono politicizzati, ma si trovano a fare processi nei confronti di politici, e per questo il processo assume una rilevanza politica, perché ci sono delle persone che fanno i minatori e vanno a fare la rapina, e ci sono delle persone che fanno i politici e vanno a fare delle corruzioni e vanno a fare degli atti illeciti pure loro. Allora non è possibile che ogni volta che il magistrato indaga, testa e eventualmente condanna un muratore, va bene, quando lo fa un politico dice che fa una sentenza politica. Di politica c'è soltanto il fatto che delle persone che sono state nominate dal popolo per fare l'interesse del popolo si fanno gli interessi propri, e nel farsi gli interessi propri si fanno anche delle leggi per non farsi processare. Solo questo io ritengo che ci sia di politica, e questa è una demarcazione fondamentale che divide me dall'onorevole Pecorella. Lascio agli elettori valutare se è più giusta la mia tesi o la sua tesi. Io ribadisco che i magistrati vanno lasciati fare il loro mestiere, e che quando c'è un politico che è sottoposto a un giudizio della magistratura deve correre dal suo giudice e farsi giudicare se sa di essere innocente. Se sa di essere colpevole, beh, allora è meglio non averlo in politica piuttosto che averlo lì a continuare a farsi gli affari suoi. Allora io devo dare il traffico, poi voglio ripartire, vi voglio far ascoltare quello che ha detto Silvio Berlusconi ieri. È intervenuto Porta a Porta, ha attaccato la Consulta, insomma, in varie dichiarazioni anche appena uscito a Palazzo Grazioli, ma quello che abbiamo già sentito anche in GR24 lo voglio riproporre, che ha detto su Napolitano e sui giudici della Corte Costituzionale ieri a Porta a Porta, secondo me è la cosa mi ha colpito di più, ecco. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Il sole24ore.com per votare oggi il sondaggio, bocciato Lodo Alfano, decisione giusta secondo voi? Ripeto, per il momento sempre il 77% dice di sì. Berlusconi ieri a Porta a Porta è intervenuto, sentite cosa ha detto sulla Corte Costituzionale, su Napolitano. La Consulta non è un organo di garanzia, è un organo politico in cui purtroppo per la successione di 3 presidenti della Repubblica di sinistra si sono nominati tutti giudici di sinistra. Presidente, ma che c'entra il Presidente della Repubblica con tutto questo? Il Presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che questa legge sarebbe stata approvata, sì, anche nei comportamenti successivi, e quindi, dato la sua notoria influenza sui giudici di sinistra e nominato lui, bastava che il capo dello Stato intervenisse. Allora c'era Rosi Bindi sotto che diceva ma no non è possibile. Avvocato Pecorella, questa me la deve spiegare, che vuol dire la notoria influenza di Napolitano sui giudici di sinistra nominati dai presidenti? Cioè doveva Napolitano alzare il telefono e dire ai giudici della Corte Costituzionale di sinistra votate Lodo Alfano, fatelo passare? Ma guardi, non è la prima volta che c'è un intervento influente del Presidente della Repubblica, anche perché il Presidente della Repubblica deve essere particolarmente attento, per esempio, alla stabilità del Paese. È accaduto in passato, in una legge che riguardava la smilitarizzazione della Guardia di Finanza, che, se ricordo bene, intervenne Oscar Luigi Scalfaro ci fu uno spostamento delle maggioranze. Io non trovo che questo sia scandaloso, perché la Corte Costituzionale ha presente delle situazioni quando si muove su questo terreno esclusivamente normative, e il Presidente della Repubblica deve garantire non solo la corretta applicazione della Costituzione, ma anche doveva intervenire sui giudici di sinistra nominati da lui, cioè togliamo la componente, per così dire, polemica o politica delle parole del Presidente del Consiglio. Una moral suasion del Presidente della Repubblica sulla Corte Costituzionale, non sui giudici ordinari, non è un fatto così straordinario, è accaduto, ripeto, e probabilmente nel momento in cui il Presidente della Repubblica non solo firmò quella legge, ma fece un messaggio dicendo questa legge la firmo perché rispetta le indicazioni della Corte Costituzionale date nel 2004, evidentemente vi era un'aspettativa che questa fosse in qualche modo collegato con una opinione generale di chi su questa legge avrebbe dovuto esprimere il proprio parere. Sì, una garanzia. Voglio sentire da Antonio Di Pietro, uno che con il Presidente della Repubblica non è stato tenerissimo di recente, c'è anche la Procura che deve esaminare se ci sono state delle accuse che possono prefigurare dei reati. Di Pietro, insomma, le chiedo a lei su Napolitano, che lei ha detto non doveva firmare, e però le chiedo anche che ne pensa di quello che ha detto Berlusconi su A Porta a Porta ieri. Ma mi voglio ricollegare, per rispondere alla sua domanda, proprio alle ultime dichiarazioni che ha detto l'onorevole Pecorella, che è esattamente il vero. Cioè, Berlusconi reclama dal Presidente della Repubblica un intervento che in realtà c'è stato e come, perché proprio come ha detto l'onorevole Pecorella, il Presidente della Repubblica nel firmare quest'atto addirittura è andato molto più là, assumendosi una responsabilità diretta, dicendo: per me questa legge è costituzionale. Più di così, anzi, io credo che è andata al limite dello sconfinamento delle proprie prerogative, perché non è che si è limitata a dire lo firma e lo valuterà la Corte Costituzionale. Per me è costituzionale, quindi altro che moral suasion ha fatto. La verità è una e una sola, e io la ribalto questa l'argomento che ha avanzato l'onorevole Pecorella, e cioè vale a dire, se nonostante il Presidente della Repubblica se ne è assunto la responsabilità e la paternità, a mio avviso sbagliando, a mio avviso facendo male, a mio avviso prendendosi una corresponsabilità in un procedimento che si è verificato poi essere incostituzionale, e la Corte lo boccia, ci dobbiamo chiedere cos'altro pretende di più questo Presidente del Consiglio per essere tutelato rispetto a tutti gli altri cittadini nel non farsi giudicare. La verità è una e una sola, che ha fatto una legge, il lodo Alfano, dopo aver fatto un altro, il lodo Schifani, che è una legge incostituzionale, oltre che immorale, ingiusta e ingiustificabile rispetto a tutti gli altri cittadini. La verità è una e una sola, che non c'è più, non basta più neanche la coperta del capo dello Stato a giustificare una legge che non ha alcuna rilevanza costituzionale, perché viola l'articolo 3, perché viola l'articolo 138, perché è stato fatto senza il dovuto quorum, perché è stato fatto in violazione dei principi di uguaglianza. Allora, in un'ottica di questo genere, perché io dico, sì, faccia i processi e si faccia processare Berlusconi, e io dico, sì, tanto già la soluzione che lui ha scelto, cioè quello di fare l'imputato e il Presidente del Consiglio, è già, lo ribadisco, una soluzione in cui poi ha portato già a casa il risultato, perché tanto arriverà la prescrizione, perché lui ogni giorno sarà impegnato e perché si dovrà ricominciare. Ci ha detto Pecorella che non passano i termini se l'impedimento è legittimo, ma le chiedo, se poi Berlusconi si dimette e viene giudicato innocente, che facciamo? Lo rimettiamo poi alla Presidenza del Consiglio? No, guarda che non è la prima volta che uno viene giudicato innocente. I processi servono non solo per ho capito, intanto però perde la carica politica se si dimette. Ma torno a ripetere, non è colpa nostra se lui, quando a suo tempo si doveva far giudicare, non si è fatto giudicare. Le ricordo che tutta questa vicenda succede per una precisa responsabilità del governo e del Parlamento, perché nelle more del processo a carico di Mills e di lui, erano in processo tutti e due, erano arrivati quasi alla sentenza finale, e mentre stava per verificarsi la sentenza finale, loro hanno fatto la legge Alfano, che ha prodotto lo stralcio del processo tra Mills e Berlusconi. Mills è stato condannato, il conduttore Berlusconi non è stato giudicato. È stato sospeso. Sono loro che hanno creato questo problema, e sono loro che hanno quindi la responsabilità oggi di rimettersi in condizione di fare gli imputati ordinari, perché tanto Berlusconi la prima cosa che farà, e io ci scommetto la testa su questo, dirà che non vuole tutte le prove che sono state acquisite nell'altro processo, vuole ricominciare il processo tutto da capo, con le 22 testimonianze, con le 9 rogatorie, e quindi quel poco tempo che è rimasto prima di andare alla prescrizione accorciata, che lui stesso si è fatto, perché ricordiamo, si è fatto un'altra legge ad persona, che ha ridotto a metà la prescrizione, tra un anno e mezzo l'ha già in prescrizione. Allora, una situazione di questo genere, lui il risultato dell'Alfano l'ha già ottenuto. In realtà non gliene frega niente a Berlusconi rispetto al processo Mills, che ha bocciato la legge. Lui a casa il risultato l'ha già portato. Allora, devo chiudere, 30 secondi, i centralini ribollono, oggi non ci sono ascoltatori, ma tanto, tra poco, Oscar Giannino continua a occuparsene dalle 9 alle 10, quindi il numero è sempre quello, 800 24 00 24. Recupereremo anche chi ha chiamato adesso, nel caso. Avvocato Pecorella, in 30 secondi però, mi prometta, devo chiudere. Lei ha sempre detto che la decisione della Consulta sarà una decisione tecnica. Ora si sente solo dire la decisione è politica, sono politicizzati. Che decisione è stata, politica o tecnica? Ma è una decisione con cui la Corte ha smentito se stessa, cambiando totalmente la precedente impostazione. Sì, ma lei ci vede politica o tecnica? Mi dica se ci vede politica o tecnica. Diciamo che laddove non c'è coerenza con le precedenti opinioni, non posso che ritenere che sia intervenuto un fattore diverso da quello meramente tecnico. Altrimenti avrebbe semplicemente rispettato la propria stessa decisione. La prendo come una decisione politica, la posso tradurre così il suo pensiero? Un po' politica, un po' troppo politica, possiamo dire così? Diciamo influenzata forse dalla situazione generale che si sta vivendo nella politica in questo momento, che è un momento di trasformazione e di passaggio forse da un'epoca a un'altra. Ah, interessante, però devo chiudere, ma Oscar Giannino continua tra poco, ripeto, in 9 in punto con il lodo Alfano, la decisione della Consulta, grazie all'onorevole avvocato Gaetano Pecorella del Popolo della Libertà, avvocato di Berlusconi anche in Consulta, e all'onorevole Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, leader dell'Italia dei Valori, grazie. Votate su ilsole24ore.com, sperando che Radio24.it riparta tra poco, se no ilsole24ore.com, il sondaggio. Alessandro Marco Tulli in redazione con Peter Bescapè. Regia, ci ritroviamo domani alle 7:30.